sento un metronomo, sento un... Sento un metronomo. Sento il clip di un metronomo. Ah, ti vedo, ti vedo. Ti vedo, Brunello. Sento... Sì, solo in cuffia. È smontato, è smontato. Mi devi dare un minuto. Ti scrivo in chat quando, ti scrivo in chat quando sono pronto. Chiudo la chiamata. Quando salvi Bruno.